accetto, fa più dolce gioire nel fortunato ardor del nuovo affetto. Tal che alcina il lieder tocca penare al povero mio cor. Quant'altri gode? Fonte perenne, il sol della salute, il sol della bellezza perenne e di gioie. E su ne gode, ad altri non in volo, il suave piacer del godimento. Una donna incostante è un gran tormento. Non ho più cor da sofferir quest'armi con cui dividi amor. Povero Astolfo, non è più cor da sostenerne. Parti! Io mi parta da te. Troppo tenaci le mie ritorte sono. Resta, ma taci! Ai, qual barbara legge impone il cuore? Dovrò vederti in fida nel povero mio amor. Potrà lagnarsi. Questa è la strada, Astolfo, per meritar gli affetti miei. La sola sofferenza può un dì farti felice. Comincia molto mal la mia fortuna. Io t'amo, e t'amo bella, col più tenero amor, col più costante, che accendesse giammai altra alma amante. E tu, donna crudele! Al vento spargi mai le tue querele!